Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina a tutti da Daniele Biacchesi. È il 2 di luglio e da oggi per tutto luglio sospesa la programmazione di prima edizione. Al mattino non andrà in onda la pillola di Italia in controluce alle 6.30 e il nostro programma viene ascoltato in unica edizione lunga a quest'ora. Viaggiare sì, ma in modo responsabile e consapevole. C'è chi viaggia per dare una mano agli altri, pulisce le spiagge, i boschi, i parchi, lavora nei campi confiscati alle mafie, si muove anche per seguire i flussi culturali, festival, i concerti. Sentiamo un reportage di Cristina Carpinelli. Viaggiano nel mondo all'incirca 1 miliardo di persone l'anno, poco meno, 990 milioni. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, di questi 1/3 scelgono la propria destinazione sulla base di una scelta culturale, quindi decidere di andare a vedere un luogo, un museo, una mostra, e di questi 330 milioni di viaggiatori annui, 1/3 scelgono in base a un festival o un evento speciale anno per anno. Quindi è un numero impressionante di persone che si muovono, ovviamente con dei fatturati pazzeschi, complessivi. È un settore in cui noi abbiamo un ruolo piuttosto importante come nazione. Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da consumare. Sono numeri che fanno impressione, quelli che ci ha dato Paolo Verri di Arte e Turismo a proposito dei viaggiatori responsabili. Sono in crescita, si muovono spesso a piedi o in bicicletta, a volte usano le settimane di ferie per dare anche una mano. È ancora tratteggiato, ma è di fatto questo l'identikit del turista responsabile. All'estremo c'è chi usa le sue vacanze per fare volontariato, un fenomeno per nulla marginale, anzi fortemente in crescita. E allora partiamo da qui. Partiamo, non vedi che siamo partiticcia. Raccolgono rifiuti lasciati da altri sulle spiagge, sistemano case confiscate ai mafiosi, percorrono sentieri abbandonati e li ripuliscono. Un esercito di operose formiche, turisti spesso giovani e giovanissimi, che al posto dei costosi campus all'estero si rimboccano le maniche in Italia. Il patto tra le associazioni e i volontari è semplice: lavoro in cambio di vitto e alloggio. Roberto De Benedittis è responsabile dei campi estivi di Libera, che conta quest'anno quasi 7.000 iscritti tra i volontari. L'anno scorso erano circa 4.000. Una cosa importante è che sono cresciuti i campi, per cui il numero dei campi è aumentato. C'è il fatto che comunque cominciano a differenziarsi i campi, per cui cominciano ad aumentare anche i campi al nord, anche perché faccia conto che circa un 65-70% dei partecipanti proviene dal centro-nord, e anche questo facilita da questo punto di vista. E sono persone giovani, giovanissime? Ma la media, diciamo, più importante è sicuramente quella tra i 20 e i 24 anni. È quella dove c'è, diciamo, gran parte dei partecipanti. Poi ovviamente abbiamo dai 15 anni fino alla persona più anziana, che è del 44, insomma, ecco, quindi c'è un po' di tutto. Senta, l'accordo com'è? Cioè, voi offrite vitto e alloggio, in cambio i ragazzi lavorano? Ma la sostanza è questa, che i volontari pagano una quota minima, che in media sono 120 euro, che servono semplicemente a fare in modo che il vitto e l'alloggio siano garantiti in modo dignitoso. E poi dopodiché loro, diciamo, fanno una giornata tipo, che è la mattina c'è il lavoro manuale, per cui vanno nei campi, oppure se si tratta, diciamo, di campi agricoli fanno un lavoro legato all'agricoltura, se si tratta di, ad esempio, di immobili da ristrutturare fanno delle piccole riparazioni, eccetera eccetera. Poi nel pomeriggio ci sono delle sessioni di formazione, per cui sostanzialmente i ragazzi sono a contatto con nostri esperti che sui vari temi, diciamo, dell'antimafia sociale, oppure ad esempio incontrano dei familiari vittime di mafia, oppure incontrano magari rappresentanti delle forze dell'ordine che, diciamo, un po' gli spiegano quali sono i rapporti con il territorio per quanto riguarda la criminalità organizzata. E poi in genere la sera si fanno degli incontri con le comunità, per cui magari con altre associazioni che sul territorio si occupano di attività sociale oppure semplicemente con rappresentanti delle istituzioni sul territorio, magari può essere il prefetto, può essere il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, insomma a seconda di dove ci si trova. Il nostro chiaramente obiettivo è quello di mantenere i contatti per fare in modo che poi possano restare vicino all'associazione, e questo in gran parte succede perché molto spesso i ragazzi che escono fuori da questa esperienza proprio nel loro territorio poi formano dei presidi di libera, insomma comunque rimangono vicini all'associazione. Dunque il vero obiettivo è quello di diffondere una cultura fondata su legalità e giustizia sociale, e visti i risultati la cosa funziona. Aumentano anche i volontari dei campi di Manitese, Legambiente, ma non solo. Roberto Furlani è il responsabile nazionale turismo per il WWF. Anche in questo settore si segnala una notevole crescita di ragazzi nei campi estivi, di volontari, ma anche una particolare impennata di turisti consapevoli che scelgono ad esempio di muoversi a piedi, in barca a vela o in bicicletta. Tra attenzione particolare e l'attenzione a come muoversi, no? Quindi al turismo lento, tant'è che appunto le modalità di spostamento sono principalmente tre, ossia la barca a vela, la bicicletta e l'escursionismo a piedi, per cui appunto un'attenzione alla mobilità sostenibile. E stanno aumentando le persone che scelgono di muoversi in questo modo? Ma sì, direi che c'è un'attenzione senz'altro maggiore, insomma, anche perché poi comunque vabbè, sia l'escursionismo sia la vela ha sempre un suo fascino, insomma comunque c'è poco da fare. Per quanto riguarda la bicicletta e per quanto riguarda anche l'escursionismo a piedi, e comunque soprattutto la bicicletta è un segmento turistico in aumento, insomma è un grazie anche a ecco quello parlerei proprio credo di crescita culturale italiana, diciamo così, che al momento tra l'altro per quanto riguarda itinerari ciclabili di più giorni l'Italia rispetto al resto d'Europa è ancora deficitaria, però direi che è un fenomeno decisamente in aumento. Cioè mancano le ciclabili però stanno aumentando i ciclisti italiani. Esattamente, quello che manca molto in Italia è non tanto la ciclabile da percorrere in giornata, direi nel nord Italia ce ne sono, non dico parecchie, ma però sono quelli che mancano sono gli itinerari da fare in sicurezza, gli itinerari di più giorni, cioè c'è poco da fare, Francia, Germania, Austria, Svizzera, da questo punto di vista sono ancora impareggiabili, per cui se una persona o singolarmente o con gli amici o con la propria famiglia vuole percorrere un itinerario, io dico in sicurezza nel senso che comunque è studiato anche, cioè quindi con piste ciclabili, con percorsi lunghi, purtroppo in Italia ne trova poche, se ne trovano di più rispetto al passato, ma però ecco non c'è ancora l'offerta che all'estero è presente da anni. La scelta di fare vacanze responsabili, spesso a piedi, viene confermata anche da Paolo Verri di Arte e Turismo, al microfono di Adriana Fracchia. In generale il turismo a piedi, walk tourism, è veramente in grande espansione. Noi a Firenze abbiamo avuto l'opportunità di far vedere i 29 cammini d'Europa, cioè quelle 29 percorsi, i più famosi dei quali sono ovviamente il Cammino di Santiago di Compostela e il Cammino della Francigena, possono diventare dei percorsi specializzati per questi operatori, e ce ne sono di straordinari. A me quello per esempio che affascina di più, non per necrofilia ma per il portato storico che ha dentro, è il percorso di tutti i cimiteri che vanno dai cimiteri ebraici ai cimiteri di città come Parigi, Berlino e Londra, quindi dei percorsi a piedi che connettono dei luoghi fra di loro straordinari e che l'andare a piedi consente di visitare in maniera slow, cioè in maniera eccellente dal punto di vista del fisico e anche della memoria. È evidente che in una vita che viviamo sempre così rapida, l'occasione di migliorare la nostra qualità è una delle necessità. Credo che non sia un caso che queste cose si sommino al fatto che sempre più spesso gli spazi stessi storici diventino luoghi dove vivere con un piuttosto tranquillità, e che quindi consentono di essere luoghi dove ci si informa, dove si legge e addirittura molto spesso anche dove si passa il tempo all'interno di alberghi ricavati proprio in spazi straordinari. Andiamo a Cella con i suoi singoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Era Italia in controluce, torniamo domani alle 13.30 su Radio 24 con un reportage su cultura e musica nel nostro paese. Italia in controluce.